24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Grecia, si discute sulla concessione della proroga per il risanamento. Da definire i dettagli tra governo ellenico e troica per un allungamento dei tempi dal 2014 al 2016 per il risanamento dei conti. Il tedesco Schäuble contrario, prima Atene rispetti gli impegni. Crisi monito di Mario Draghi, sta ai governi riformare le loro economie. Libano, il capo della diplomazia europea Catherine Ashton preoccupata dopo l'omicidio del capo dei servizi segreti. Benvenuti da Paolo Panceri a questa nuova edizione di 24 ore in Europa. Ancora da definire gli ultimi dettagli che dovrebbero portare a un allungamento dei tempi concessi dalla Troica alla Grecia dal 2014 al 2016 per raggiungere il risanamento dei conti. Il portavoce del commissario europeo agli affari economici Olli Rehn ha spiegato che sono stati fatti progressi sostanziali nelle discussioni con il governo greco, ma restano aperte poche questioni prima che possa essere concluso un accordo.